Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Tommaso Ragno legge Camera con vista, di Edward Morgan Forster. Traduzione di Marcella Bonsanti. L'incontro al rettorato si era svolto benino. Ritta fra il signor Beebe e Cecil aveva fatto alcune allusioni moderate all'Italia e Giorgio aveva risposto. Le premeva a mostrare che non era timida e constatò con piacere che non appariva timido neppure lui. «È un bravo ragazzo», disse in seguito il signor Beebe. «Con l'andar del tempo smusserà i suoi spigoli. Sono incline a diffidare dei giovani che scivolano garbatamente nella vita». Lucy disse: «Sembra di umore più sollevato. Ride più spesso di prima». «Già», rispose il reverendo. «Il giovane Emerson si sta svegliando». Questo fu tutto. Ma via via che passava la settimana, le difese di Lucy cadevano sempre più numerose e lei ospitava un'immagine dotata di bellezza fisica. Malgrado le precise istruzioni che le erano state impartite circa il suo arrivo, la signorina Bartlett riuscì a combinare un pasticcio. La signora Honeychurch ci andò in carrozza ad attenderla alla South Eastern Station di Dorking. Lei scese viceversa alla London and Brighton Station e fu costretta a servirsi di una vettura pubblica. In casa non c'era nessuno e Freddy e il suo amico dovettero interrompere il tennis e intrattenerla per un'ora buona. Alle 4 comparvero Cecil e Lucy e insieme alla piccola Minnie Beebe formarono un sestetto alquanto lugubre mentre prendevano il tè sul prato. «Non potrò mai perdonarmi», disse la signorina Bartlett, che si alzava ogni momento dal suo posto, tanto che gli altri membri della comitiva dovettero pregarla ripetutamente di starsene ferma. «Ho provocato un grosso scompiglio. Capitarvi tra capo e collo a voi giovani, ma esigo rimborsare la spesa della vettura. Questo vorrete concedermelo, perlomeno?» «I nostri ospiti non fanno mai una cosa così orribile», dichiarò Lucy. Lucy, come sono noiosa!» protestò la signorina Bartlett e seguì la cugina sul prato. Lucy trotterellava speditamente, simulando l'ilarità. Quando furono a sicura distanza dal resto della comitiva, la signorina Bartlett troncò le proprie lamentele per domandare in tono vivacissimo: «Gliel'hai già detto di lui?» «No, non gliel'ho detto», rispose Lucy, ma subito dopo si sarebbe morsa la lingua per essere stata così svelta a capire l'allusione della cugina. «Vediamo, l'equivalente di una sovrana in monete d'argento», e si rifugiò in cucina. I repentini trapassi mentali della signorina Bartlett erano davvero allucinanti. Certe volte si aveva l'impressione che architettasse ogni parola che le usciva di bocca o che faceva uscire dalle bocche altrui, come se tutte quelle storie a proposito di vetture a nolo e cambiamenti in spiccioli fossero state un tranello per cogliere l'anima di sorpresa. «No, non l'ho detto né a Cecil né a nessun altro», ripete Lucy quando fu di ritorno. «Ti avevo promesso che avrei taciuto. Eccoti i tuoi soldi, tutti scellini salvo 2 mezze corone. Vuoi contarli? Ora potrai soddisfare pienamente il tuo debito». La signorina Bartlett in salotto contemplava la riproduzione fotografica dell'ascesa di San Giovanni al cielo che era stata incorniciata. «Spaventoso!» mormorò. «Anzi, molto peggio che spaventoso, se il signor Weiss ne venisse informato da qualche altra fonte». «Eh no, Charlotte», ribatté la ragazza impegnandosi nella battaglia. «George Emerson è una persona per bene. E quale altra fonte potrebbe esserci?» La signorina Bartlett ponderò. «Quel vetturino, per esempio, lo vidi che ti spiava attraverso i cespugli. Rammento che teneva una violetta tra i denti». Lucy rabbrividì leggermente. «Se non stiamo attente, ci faremo prendere dal nervosismo a causa di questa sciocca faccenda. Ti pare che un vetturino di Firenze potrebbe mai arrivare fino a Cecil? Dobbiamo tenere presente ogni eventualità. Via, non è il caso di preoccuparsi. O forse lo sa il vecchio Emerson, anzi, lo sa di sicuro. Ammesso che lo sappia, non me ne importa. Ti sono grata di avermi scritto quella lettera, ma se anche si spargesse la voce, direi che posso fidarmi di Cecil. Ci farà su una risata». «La smentirà?» «No, ci farà su una risata». Ma Lucy era convinta in cuor suo di non potersi fidare di lui, perché lui la desiderava intatta. «Benissimo, cara», continuò la signorina Bartlett. «Tu lo sai meglio di me. Può darsi che oggi gli uomini siano diversi da come erano i miei tempi. Le donne lo sono senza dubbio. Andiamo, Charlotte». E Lucy colpì scherzosamente sua cugina. dolce creatura che si agita sempre per nulla. Cosa vorresti che io facessi, insomma? Prima mi dici sta zitta, poi mi dici parla. Deciditi, alla buona ora, svelta. La signorina Bartlett sospirò. Sono incapace di tenerti testa nella conversazione, carissima. Arrossisco se penso a come mi mischiai nei fatti tuoi a Firenze mentre tu eri così brava a badare a te stessa e tanto più competente di me sotto ogni aspetto. Usciamo dunque, altrimenti quelli fracasseranno tutto il vasellame. L'aria risuonava infatti degli strilli di Minnie che qualcuno stava scotennando con un cucchiaino da tè. Un momento, cara. Può darsi che non ci si ripresenti più l'occasione di scambiare due chiacchiere. Hai già visto quel tale? Sì che l'ho visto. E che cos'è accaduto? Ci siamo incontrati al rettorato. Qual è la sua linea di condotta adesso? Nessuna. Ha parlato dell'Italia come tutti gli altri. Non abbiamo assolutamente nulla da temere. Che vantaggio gli verrebbe a comportarsi da mascalzone per parlar chiaro? Vorrei proprio riuscire a farti vedere le cose come le vedo io. Non ci darà il minimo fastidio, Charlotte. Chi mascalzone nasce, mascalzone muore. Questo è il mio modesto parere. Lucy tacque un istante e poi osservò. Cecil disse un giorno, e trovai così profonda la sua idea, che ci sono due specie di mascalzoni, il cosciente e il subcosciente. Si interruppe di nuovo per essere certa di rendere giustizia alla profondità di Cecil. Dalla finestra vedeva Cecil appunto che sfogliava le pagine di un romanzo. Era un nuovo volume della biblioteca di Smith. Sua madre doveva essere tornata dalla stazione. «Che mascalzone nasce, mascalzone muore!» salmodiò la signorina Bartlett. «Quello che intendo dire con la parola subcosciente è che il signor Emerson perse la testa. Io caddi in mezzo a tutte quelle violette e lui restò sorpreso e stupidito. Credo che non dovremmo giudicarlo con troppa severità. C'è una tale differenza quando si vede all'improvviso un individuo con delle cose belle dietro di sé. Sul serio, c'è una differenza enorme. E lui perse la testa. Non mi ammira neanche un po' e non sa che farsene di tutte quelle sciocchezze. A Freddy è riuscito abbastanza simpatico e lo ha invitato a venire domenica, così potrai renderti conto da te stessa. È meglio di prima, sai? Non ha più quell'aria come se stesse sempre per scoppiare in lacrime. Lavora nell'ufficio del direttore generale di una grande compagnia ferroviaria, altro che facchino. E ogni weekend corre qua giù da suo padre. Il papà si occupava di giornalismo, ma ha i reumatismi ed è andato a riposo. Ecco tutto. Adesso torniamo in giardino. Lucy agguantò per il braccio la sua ospite. E se la facessimo finita con questa stupida storia italiana? Vogliamo che il tuo soggiorno a Windy Corner sia piacevole e riposante e senza grattacapi. Parve a Lucy che quel discorsetto fosse abbastanza azzeccato. Il lettore ci avrà forse scoperto una malaugurata svista. Se l'avesse scoperta anche la signorina Bartlett, non si sa, perché è impossibile penetrare nella mente delle persone attempate. Probabilmente la ragazza avrebbe continuato a parlare, ma furono interrotte dalla comparsa della padrona di casa. Ebbero luogo le spiegazioni e Lucy fuggì di punto in bianco, mentre le immagini le palpitavano un po' più vivide nel cervello. La domenica dopo l'arrivo della signorina Bartlett fu una giornata splendida, come quasi tutte le giornate di quell'anno. Nel Weld l'autunno si avvicinava rompendo la verde monotonia dell'estate, spruzzando i parchi di una grigia fioritura nebbiosa, i faggi di color ruggine e d'oro le querce. In cima alle alture battaglioni di pini neri assistevano al mutamento, loro stessi immutabili. Sulla campagna dell'uno e dell'altro versante si inarcava la volta di un cielo senza nubi e da entrambi sorgeva il richiamo argentino delle campane. Il giardino di Windy Corner era deserto, se si eccettua un libro rosso adagiato sulla ghiaia del viale a prendersi il sole. Dalla casa uscivano rumori incoerenti, come di femmine indaffarate nei preparativi del culto. «Gli uomini dicono che loro non vengono. Beh, io non li critico certo. Minnie vorrebbe sapere se c'è proprio bisogno che venga. Dille che faccia meno storie. Anne, Mary, affibbiatemi dietro. Carissima Lucia, posso abusare della tua gentilezza chiedendoti in prestito una spilla?» La signorina Bartlett, infatti, aveva annunciato che per quanto riguardava lei optava decisamente per la chiesa. Il sole continuava a salire nel suo itinerario, non guidato da Fetonte, ma da Apollo, competente, indefettibile, divino. E ogni volta che le signore si accostavano alle finestre delle camere da letto, I suoi raggi cadevano su di loro e cadevano in Summer Street, sul signor Beebe sorridente alla lettura di una lettera della signorina Catherine Allan, su George Emerson, occupato a pulire le scarpe di suo padre e, finalmente, per completare il catalogo delle cose immemorabili, sul già menzionato libro rosso. Si muovono le signore, si muove il signor Beebe, si muove George e il movimento può generare dell'ombra. Ma questo libro resta immobile, a farsi accarezzare dal sole durante l'intera mattinata e solleva appena la copertina, quasi in segno di riconoscenza per la carezza. Ecco Lucy, che esce dalla porta finestra del salotto. Il suo vestito nuovo color ciliegia si è rivelato un pieno fallimento e le dà un'aria pacchiana ed emaciata. Porta sul petto una broche di granate, al dito un anello incastonato di rubini, l'anello di fidanzamento. Tiene lo sguardo abbassato sul Weld. Aggronda leggermente la fronte, non per la collera, ma come un bambino coraggioso la aggronda quando si sforza di frenare il pianto. In tutta la vasta distesa nessun occhio umano la osserva ed è padrona di aggrondare impunemente la fronte e misurare gli spazi che sopravvivono ancora tra Apollo e le colline occidentali. «Lucy, Lucy, cos'è quel libro? Chi è stato a togliere un libro dallo scaffale e a lasciarlo in giro perché si sciupi? È solo l'ultimo volume della biblioteca pubblica e Cecil lo stava leggendo. Raccatalo dunque e smettila di bighellonare, mi sembri un fenicottero». Lucy raccattò il libro e diede un'occhiata distratta al titolo. «Sotto una loggia». Non leggeva più romanzi ora, giacché dedicava tutto il suo tempo libero alla letteratura sostanziosa, nella speranza di riuscire a raggiungere Cecil. Era paurosamente scarso il bagaglio delle sue cognizioni, e anche quando credeva di averne assimilata qualcuna, per esempio sui pittori italiani, scopriva di essersela scordata. Non più tardi di quella mattinata aveva confuso Francesco Francia con Piero della Francesca e Cecil aveva detto: «Ma come, stai già dimenticando la tua Italia?» E questo pure aveva contribuito a intensificare l'inquietudine dei suoi occhi mentre salutava il caro paesaggio e il caro giardino in primo piano e sopra entrambi, quasi inconcepibile altrove, il caro sole. Il paganesimo è contagioso. Più contagioso della difterite o della devozione. E la nipote del rettore fu condotta in chiesa malgrado le sue proteste. Come sempre non capiva perché. Perché non poteva restarsene a sole insieme ai giovani? I giovani che erano apparsi in quel momento la canzonarono con parole ingenerose. La signora Honeychurch prese le difese dell'ortodossia e nel pieno della confusione la signorina Bartlett, vestita secondo l'ultimo grido della moda, discese le scale a passo lento. «Sono desolata, cara Marian, ma mi ritrovo senza spiccioli. Ho soltanto delle sovrane e qualche mezza corona. C'è nessuno che potrebbe cambiarmi? Ma sì, sta tranquilla, salta dentro. Cielo, che lusso. È un amore quest'abito, ci farai sfigurare tutte e tre. Se non li indossassi ora, i miei cenci migliori, quando è che dovrei indossarli?» disse la signorina Bartlett con voce di rimprovero. Entrò nella Victoria e si mise a sedere dando la schiena al cavallo. Ne seguì l'indispensabile trambusto, dopodiché le signore partirono. «Arrivederci, siate buone!» gridò Cecil. Lucy si morse le labbra perché il tono era beffardo. Sul tema della chiesa e affini avevano avuto uno scambio di idee non troppo soddisfacente. Cecil aveva affermato che dovremmo revisionare noi stessi e lei non era disposta a revisionare se stessa. Non sapeva come bisogna procedere. L'ortodossia sincera, Cecil la rispettava, ma dava sempre per scontato che la sincerità fosse frutto di una crisi spirituale. Non riusciva a concepirla come un diritto di nascita naturale, capace di espandersi verso il cielo alla maniera dei fiori. E quel che lui disse al riguardo la addolorò, sebbene trasudasse tolleranza da tutti i pori. Chissà come gli Emerson erano diversi. Lucy rivide gli Emerson quando uscì dalla chiesa. Lungo la strada c'era una fila di carrozze e quella di sua madre sostava per l'appunto di fronte a Villa Sissi. Per fare più alla svelta, le signore vi si diressero a piedi attraverso il prato e trovarono padre e figlio che fumavano in giardino. «Presentameli», disse la signora Honeychurch, «a meno che il giovane non consideri di avermi già conosciuta». Probabilmente il giovane considerava proprio questo, ma Lucy ignorò il lago sacro e fece formalmente le presentazioni. Il vecchio Emerson la salutò con gran calore e si dichiarò contentissimo delle sue nozze imminenti. Lucy disse che era contenta anche lei. Quindi, siccome la signorina Bartlett e Minnie erano rimaste indietro col signor Bibb, cambiò discorso e scelse un soggetto meno spinoso, domandandogli se gli piaceva la nuova casa. «Mi piace assai», rispose il signor Emerson, «ma dalla sua voce trasparve una nota di indignazione». Era la prima volta che Lucy lo vedeva indignato. «Siamo però venuti a sapere», continuò il vecchio, «che dovevano venirci le signorine Alan e che noi le abbiamo estromesse. In casi del genere le donne ci rimangono male e questo mi ha turbato immensamente». «Credo che ci sia stato qualche malinteso», osservò imbarazzata la signora Honeychurch. «Al nostro padrone di casa fu assicurato che eravamo tutt'altro tipo di persone», disse George, che non sembrava incline a lasciare cadere l'argomento. «Lui credeva che ci occupassimo d'arte, ma ha avuto una delusione. E io mi domando se non dovremmo scrivere alle signorine Alan per dire che siamo disposti a rinunziare alla casa. Lei che ne pensa?» soggiunse il vecchio rivolgendosi a Lucy. «Oh, già che ci siete, restateci», rispose Lucy con disinvoltura. Doveva astenersi dal criticare Cecil. Era su Cecil, infatti, che verteva il modesto episodio, malgrado si tacesse sempre il suo nome. «Lo dice anche George. Dice che le signorine Alan devono rassegnarsi alla sconfitta. Eppure trovo che è molto egoistico da parte nostra. Al mondo esiste solo una certa quantità di altruismo», obiettò George, osservando gli sprazzi di sole sui finestrini delle carrozze di passaggio. «Ma sì», esclamò la signora Honeychurch, «è precisamente quello che dico io. Che bisogno c'è di sbracciarsi tanto per due signorine Alan qualsiasi?» «Esiste una certa quantità di altruismo proprio come esiste una certa quantità di luce», proseguì George in tono pacato. «Noi proiettiamo un'ombra su qualcosa dovunque stiamo, e non serve spostarci da un punto all'altro per salvare una situazione, perché l'ombra ci segue costantemente. Scegliamoci un punto dove non faremo del male, sì, scegliamoci un punto dove non faremo un gran male e sforziamoci di rimanervi ben saldi di fronte alla luce del sole». «Ah, signora Emerson, mi accorgo che lei fa sfoggio di ingegno, eh? Mi accorgo che lei sta per fare sfoggio di ingegno. Spero che non si sia comportato così col povero Freddy». Risero gli occhi di George, e Lucy sospettò che lui e sua madre si sarebbero intesi abbastanza bene. Tommaso Ragno ha letto Camera con vista di Edward Morgan Forster, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it.